www.radio3pod.rai.it. Eh sì, buongiorno, ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio, cioè pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Eh sì. Succede, per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce. Mentre nella fabbrica di polli non sappiamo più che cosa dire, Kappa e Drago stanno annoiandosi oltre ogni limite. Allora Kappa, cresta semplice, duplicatura cutanea con margine superiore dentellato. Il lobo posteriore può essere più o meno espanso e può seguire o meno la curvatura della nuca. Nel gallo, indipendentemente dalle dimensioni, è sempre portata perfettamente diritta. Nella gallina è portata in talune razze diritta, la Plymouth Rock, in altre piegata su uno dei due lati del capo, la Livornese. Sì, capito? Ho capito. Sì. Cresta a coppa, due lamine carnose con margine superiore dentellato, perfettamente serrato posteriormente a formare una struttura a coppa tipica della gallina siciliana. Beh, ma quante ce ne sono ancora? Un'infinità, guarda qui. Sì, ma non è tanto interessante leggere a voce alta la definizione delle varie creste esistenti, Drago? In biblioteca qui non c'è altro. Io poi ho una passione insana per gli almanacchi, i dati precisi. Sai, come quando da piccolo studiavo a memoria le formazioni delle squadre europee. Che ne so, lo Standard Liegi, la Dinamo Mosca, l'Hajduk di Spalato, lo Young Boys di Berna. Le conoscevo tutte a memoria. Che bello. Povero piccolo autistico Drago. Vabbè, adesso, a parte le cazzate, le creste sono un argomento molto interessante, anche perché qua dentro noi non sappiamo quanti rapporti sono gestiti dalle creste. Cioè, se uno ha una bella cresta a cornetti, è più potente di uno che ha solo una cresta a mora. Ma vabbè, ma chi se ne frega? Sono cose interne dei polli, lascia stare. E no? Appunto, lasciatele pure stare le creste, va? Tanto voi non capite niente di cresta, Quando tu hai una cresta, direi, guardando qui, a mora, di quelle scarsucce, di quelle, diciamo così, ordinarie. Lo so. Però in compenso il becco, Però devo dire che ultimamente ho pensato un sacco di volte a fare un trapianto. Un trapianto di cresta? Un tupè? Cosa fa? No, perché quando un gallo cedrone muore, no? Si taglia la cresta e la si impianta sulla testa di un pollo normale, E non si fa, È molto costoso. E anche dei rischi di rigetto, Però insomma, io sono molto tentato. Pollo, tu con la cresta di un gallo cedrone fareste la fine di Little Tony, con quel ciuffone ridicolo, non penso ti stia bene. Sì, però vuoi mettere il prestigio? No. Ma cosa? Anche col trapianto? La chirurgia plastica adesso è uno status symbol, E mica solo qui. Ma stai zitto tu, baby gang, che non sei altro. Baby gang, state zitto, mi usabile. Ecco, le ho dette tutte così a posto, Vabbè, ma quali operazioni di chirurgia plastica fanno i polli? Perché questo mi interessa. Perché oltre alla cresta c'è anche il trapianto di piume per quelli un po' spelacchiati, no? Tipo Tarek, no? E poi il trapianto di becco, Com'è il trapianto di becco? Ma quello è rarissimo, Eh sì, perché qui nessuno vive abbastanza lungo per arrivare a avere il becco da un donatore sano, no? Sì, ma come fanno? Si iscrivono nelle liste come per i reni? Sì, è tutto regolarizzato, Cioè, tu ti iscrivi e poi dai il numero di telefono, no? E loro poi ti possono chiamare da un momento all'altro, E anche di notte, E se non ci sei e non rispondi, Perdi il tuo turno, E arrivi in fondo alla coda, E poi ti rimane il beccuccio, Comunque, se ti trovano, ti dicono che è arrivato il becco, però finora non è mai successo nessuno, perché li macerano tutti prima. È troppo tardi. Stanotte, Drago, ho sognato delle cose incredibili. Ma sempre, sempre comunque. Ero in Sicilia con Andreotti. Aia. E lui mi faceva la guida tra i tesori del barocco e mi spiegava tutto con la sua voce bassa e monotona. E poi a un certo punto indica un affresco che raffigura il bacio di Giuda a Gesù. E mi spiega quelli sono Giuda e Totò Riina. E io dico, ma no, onorevole, non sia blasfemo, quello è Gesù, non è Totò Riina. E lui insiste, e allora io gli dico, a me sembrerebbe piuttosto che quello non sia Giuda, ma lei, onorevole. E in effetti nel quadro Giuda aveva gli occhiali e la gobbetta. Capito, da sì, la gobbetta. Sì. E poi? E poi la Sicilia diventava il deserto del Sahara, credo, perché eravamo io e te a dorso di un dromedario che litigavamo per un pacchetto di Camel. E Andreotti? Si era preso la mononucleosi a forza di baciare tutti e poi era sparito. Ah, ecco, sì, sì. E i Tuareg, c'erano i Tuareg. I Tuareg? Eh sì, tutti vestiti di blu. E cosa facevano? Ah, parlavano in francese con me, no, tu non capivi, però io sì, perché nel sogno io ero cresciuto a Parigi, no, nel 18° arrondissement, rue de Toulouse, tu viene tu? No, io non lo so, no, però immagino che tu sì, visto che ne parli sempre. Non sono mai stato in quella via. Ma nei sogni sì, invece. No? Ah, oui. Non mi dire che il sogno finiva lì, però. Ma bien sûr. Con te che diventavi francese borioso e facevi così. Ma oui. In pratica Parigi è la fine di tutti i sogni. La fin de rêve. Vabbè, ma non sputacchiare così che mi fa schifo, dai. Me piace parlo. Smettila. Italiana charlatana. Ma dai. Mi piace partire in macchina d'agosto. Resto in coda volentieri alla cassa del bar. Resto in coda volentieri sulla riva del mar. Resto in coda anche la sera quando vado a far l'amore sul via. Io voglio far le cose tutte quante insieme a voi. Non voglio restare solo mai. Io voglio far le cose in diretta con il mondo. Non voglio star da solo neanche un minuto e neanche un secondo. La fabbrica di polli. Tre, da oggi per te è vietato guardare alla TV i video dei rapper, eh? Va bene? I rapper? Ma no, quelli sono cattivi esempi per te, no? Quelli sono gangster delinquenti. Gangsta! Sì, bravo, poi ti metti in testa di fare la baby gang e ti metti nei guai con la polizia, uè! Ma taci, gandula, tu non sai nemmeno cosa vuol dire. Sì, perché noi negli anni 70 sapevamo che cosa voleva dire sprangare i celerini, eh? Ma voi cosa ne sapete? Perché voi ripetete senza capire le cose che dicono i negri del ghetto. Ma come dei papagalli lo fate. Ma tu non sei neanche un papagallo, eh? Un papagallo! Ma no, tu sei un polo giovane e sei pure spelacchiato. Sei troppo vecchio per fare il baby gangster. È troppo giovane per avere così poche piume, uè! Trapianto? Ah sì, adesso tu vuoi fare anche un trapianto di piume, eh? Sì, perché forse magari ti conviene anche, come Elton John e Lucio Dalla, eh? Senza vergogna quelli, un giorno pelati, e il giorno dopo con la riga da una parte. È gangster! Gangster, uè! Io vorrei tanto che una volta tu incontrassi un vero gangster che ti minaccia, ma uno vero, eh? Non uno di quei video che guardi tu, perché quelli sono attori. Un vero delinquente incazzato nero che se la prende con te, uè! Tipo un Renato Balanzasca di 30 anni fa, eh? Quante risate mi farei a vederti tramare, mamma mia! Balanzasca! Il gruppo Ska! Ma che Ska? Che gruppo Ska? Balanzasca! René! Quello della banda della Comasina, no? Quelli sì che erano cattivi forte, eh? Quelli facevano rapine col delitto. Eh sì, perché quelli rubavano i soldi, però ci scappava sempre il morto, eh? E perché René era uno che aveva il credito facile, ma tu sai quando agiva il Balanzasca? No! Ma negli anni 70, no? Ciula che non sei altro! Ma lo sai come mai, poi? No! Eh sì, perché negli anni 70 anche i delinquenti facevano meglio. Che cosa succederà adesso? Tarek si farà influenzare dal cattivo maestro pollo in sbattimento, smetterà di guidare una baby gang e fonderà una banda di rapinatori sanguinari? E K, finirà davvero a Parigi, in Rue de Toulouse? Ah, bien sûr, tu parles. Ah, bien sûr. Lo scoprirete solo lunedì a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo arzigogolato allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. No more. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen, con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.